Salutiamo da Mondeggi Bene Comune Roberto Checcucci, ben trovato, buongiorno. Buongiorno cara, buongiorno. Allora, un fuori programma, Roberto, parlavamo della produzione di fichi e di come può essere una produzione sostenibile in sostituzione a quelle che sono appunto produzioni, Jimmy, che non possono essere più praticate per terreni che vengono sottratti all'agricoltura dati i cambiamenti climatici. I fichi a Mondeggi ci sono o non ci sono, Roberto? Sì, i fichi a Mondeggi ci sono. Essendo un territorio contadino da secoli, accanto a ogni nucleo colonico c'è generalmente un albero di fico e un albero di gesso, qualche volta anche un noce. Esatto, anche perché poi seccati fichi e noci vanno benissimo insieme, esatto, si farciscono i fichi con le noci, quindi è vero, esattamente è così. Ecco, questa è una parentesi, uno spaccato rispetto invece a un tema che volevamo approfondire con Roberto Checcucci, che riguarda il futuro di Mondeggi Bene Comune, che è diventato nelle scorse settimane APS, ovvero Associazione di Promozione Sociale, entrando a pieno titolo nella legalità, possiamo dire, però una legalità che era messa in pratica nella sua effettiva vitalità, restituita al territorio davvero da anni, che adesso però cosa permette come strumento anche di interlocuzione con le istituzioni? Allora, intanto permettimi di fare un piccolo inciso, nel senso che se da un punto di vista formale noi fino a qualche mese fa appunto non rientravamo nei canoni standard della legalità, noi in questi 8 anni di vita ci siamo sempre sentiti legittimati a fare quello che abbiamo fatto, perché di fatto abbiamo custodito e riportato alla vita un territorio che era abbandonato da molti anni, da molto tempo. Di fatto ci siamo presi cura di un bene pubblico che noi lo rivendichiamo come comune, sostituendoci all'ente gestore. Quindi diciamo che la legalità è stato un passaggio obbligato che ci è stato imposto dallo stato di fatto attuale, cioè dall'esistenza di un finanziamento europeo della città metropolitana che coinvolge anche la tenuta che Mondeggi. Ecco, in questo statuto che è stato depositato vengono definite le finalità che però, come ben spiegavi tu, in questi 8 anni erano messe in pratica nella loro quotidianità, ovvero un'attività di organizzazione per la tutela dei cittadini e del territorio. Noi già da 2017, se non vado errato, ci siamo dotati di una dichiarazione di uso civico di un bene comune, che era la nostra carta d'identità, al cui interno erano esplicitati tutti i principi che ci hanno portato avanti fino ad adesso e che appunto si riassumono in 2 punti fondamentali. Il primo è quello appunto che dicevo prima, della gestione orizzontale di Mondeggi come bene comune, quindi come bene attraversabile e usufruibile da tutta la comunità territoriale secondo determinati principi. Il secondo è la cura agroecologica del territorio, quindi un lavoro agricolo che diciamo privilegia il lavoro manuale alla meccanizzazione, che rifugge completamente con cibi chimici e che tende a salvaguardare la biodiversità. Questi 2 principi fondamentali rientrano tranquillamente nello statuto dell'APS. Diciamo che lo statuto dell'APS non è altro che la trasposizione nella forma degli statuti prevista dalla legge della nostra dichiarazione d'uso. Quindi diciamo dal punto di vista delle regole comportamentali per noi non cambia nulla. Nell'interlocuzione invece con la città metropolitana, ma soprattutto nell'intercettare i fondi del PNRR, un progetto da 50 milioni di euro, con questi fondi, con quali caratteristiche, quali tempistiche anche di realizzazione? Allora, questa cosa è nata l'anno scorso. A luglio dell'anno scorso il sindaco Nardella, appunto, in una conferenza stampa dichiarò la sua volontà di non vendere Mondeggi e di destinarvi una cospicua fetta di soldi europei, appunto circa 50 milioni. La cosa curiosa è che questi soldi sono in un canale nella missione, come si chiama il PNRR, che riguarda il terzo settore, l'inclusione sociale, non l'agricoltura. Però sono soldi che serviranno di fatto a ristrutturare tutte le case, la villa, le strade, a rendere diciamo completamente fruibile tutta la tenuta da un punto di vista infrastrutturale e strutturale. Ovviamente è stata una decisione che non abbiamo preso noi, c'è stata calata dall'alto, e a questa, visto che diciamo questo processo che è partito appunto a luglio dell'anno scorso, questo processo sta andando avanti, sarebbe andato avanti anche senza di noi, pur con faticosissime discussioni all'interno, è stato deciso di starci dentro e vedere dove si va a finire. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto la PS, perché essendo prevista a brevissimo la chiamata di un tavolo di coprogettazione per la gestione futura di Mondeggi, non è possibile sedersi a un tavolo di questo tipo se non c'è una figura giuridica, e questo ci ha spinto appunto a fare la PS e a pensare a una progettualità più ampia anche con altre realtà territoriali che potessero sviluppare, oltre all'aspetto agroecologico, anche l'aspetto sociale, per poter venire incontro agli scopi di questi finanziamenti. Molto interessante la storia di Mondeggi, che noi seguiamo dall'inizio. Che cuci, e vorrei una sua valutazione personale, no? Perché parte dall'illegalità, e con l'illegalità c'è anche l'incertezza del futuro, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui si rientra nella legalità per usufruire di quello che di buono la legalità può dare, cioè questi finanziamenti. Cosa ci si sente ad aver attraversato questo percorso? È una bella domanda. Allora, io ora parlo a titolo ovviamente personale. Ritengo, guardando questi 8 anni di vita che abbiamo passato, che il momento conflittuale dell'occupazione sia stato fondamentale per rivendicare la nostra identità e per iniziare un processo che poi ha portato, oltre alla rivendicazione e alla difesa di Mondeggi dalla vendita, alla proposta di una gestione alternativa appunto come bene comune. L'ho detto prima, probabilmente la nostra comunità stava bene anche come stava, nel senso che la necessità di avere una PS era sentita, ma non più di tanto. Noi dall'inizio ci stiamo interrogando su se fare o no un'associazione per poter avere alcune diciamo aperture anche commerciali, detto brutalmente, che adesso non possiamo avere. Però abbiamo sempre ritenuto che la nostra comunità, essendo molto eterogenea, molto fluida, potesse essere rappresentata meglio appunto da un soggetto informale. Questo passaggio adesso l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto appunto perché spinti a farlo. Mi auguro che la comunità abbia la forza e la non so come definirlo, sì, la forza di rivendicare i propri principi che ci portano avanti da tanti anni anche in quest'ambito, anche in questa veste giuridica nuova. Arrivano quindi attestati di sostegno a Mondeggi dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici al 342-8104-111. Ci scrivono 1-10-100 Mondeggi, oppure Mondeggi è sempre stata anche sociale, io ci sono stato spesso ai loro eventi con tutta la famiglia, sono state giornate bellissime, bravi ragazzi e ragazze di Mondeggi, siete un faro, ci fa piacere condividerlo con voi. Una doppia domanda però sul fronte del dialogo: da un lato, come prosegue il dibattito interno, no? Quali sono le abitudini di Mondeggi al confronto sui vari step anche da fare adesso particolarmente concreti in vista di questa interlocuzione, di questo tavolo di coprogettazione? E rispetto a questo tavolo, quali saranno i vostri cardini, le vostre priorità rispetto al futuro sia dei terreni che anche delle strutture? Dunque, allora, Primo argomento, la discussione interna. Noi appunto da quando è cominciata questa c'è più questa tegola sulla testa, diciamo così, stiamo morendo di assemblee, nel senso che praticamente una volta alla settimana ci vediamo per discutere su cosa fare, su come farlo, con chi farlo. In questo caso la estrema molteplicità varietà di persone che compongono la nostra comunità ovviamente si riflette in una altrettanta varietà di punti di vista, e quindi alcuni dei quali anche estremamente radicali, di critica radicale al PNRR, ai finanziamenti europei, per cui la discussione è stata ed è molto faticosa, dolorosa anche se si vuole, perché ritengo che alla fine qualcuno si allontanerà perché riterrà che Mondeggio non sarà più il suo luogo, però ecco, è una modalità che alla fine ci ha spinto andare a vedere le carte della città metropolitana. Noi appunto ora stiamo facendo questo progetto allargato con altre realtà territoriali che richiede ovviamente la gestione agricola del territorio, anche perché la città metropolitana da questo punto di vista non ha mai avanzato né richieste né idee progettuali di nessun tipo. E richiediamo la possibilità a chi lavorerà la terra in futuro di abitare a Mondeggio così come sta facendo adesso, magari con modalità diverse, con diciamo dislocati in luoghi diversi, però riteniamo fondamentale che chi lavora la terra la abiti anche. Secondo te, no, ci sono o ci potrebbero essere, da questa da essere diventata associazione legale, dei limiti al vostro modo di operare, dei cambiamenti che questa nuova identità vi può attribuire? Non lo so, nel senso che io mi auguro di no, diciamo che anche la parte della comunità che più ha spinto in questo periodo a portare avanti il dialogo con le istituzioni e questa strada che è comunque davanti a sé, ha comunque uno schermo nero, un'incognita, noi di fatto non sappiamo quello che succederà, non sappiamo poi se le nostre intenzioni che sono sulla carta uguali a quelle di prima, anche se con forme diverse, poi verranno declinate in modo completamente diverso. Quindi tutti noi stiamo molto attenti a quello che sta succedendo e credo che tutte le carte verranno scoperte al tavolo di coprogettazione, dove potremo sapere se siamo gli unici interlocutori, se c'è qualcun altro e soprattutto come la città metropolitana vorrà gestire questo tavolo per arrivare all'affidamento di tutta la tenuta. Però ecco, sinceramente non so dirti se riusciremo a mantenere la nostra identità così come ce l'abbiamo adesso. Probabilmente Mondeggio sarà un'altra cosa, reputo che potrà anche cambiare nel rispetto dei principi che siamo dati. E questo mi sembra la risposta più laica e corretta, insomma, è anche in divenire, un divenire che noi racconteremo e cercheremo di approfondire passo passo. Nel frattempo un altro messaggio molto significativo che ci arriva da Cecilia: Mondeggio, bell'esempio, uniti con voi come per la GKN. Sappiamo anche, insomma, l'insorgenza e la convergenza si è manifestata, perché se non sbaglio Mondeggio è proprio stato al centro anche di una delle iniziative con il suo mercato contadino davanti ai cantieri della GKN. Sì, noi in GKN abbiamo una convergenza e un contatto molto forte. Non è escluso che poi riusciamo anche che la stessa GKN riesca a convergere all'interno del Mondeggio con determinate attività. Ripeto, noi stiamo facendo questo progetto che ha come caratteristica, visto che come oggetto ha la gestione di un bene comune, ha come caratteristica di essere molto aperto. Quindi chiunque, qualunque realtà, chiunque voglia venire, voglia mettersi in gioco per la gestione, per utilizzare gli spazi, è comunque benvenuto. La GKN sicuramente è un interlocutore preferenziale. Roberto Checcucci di Mondeggio Bene Comune, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buona giornata a tutta Mondeggio. Grazie a voi, buona giornata anche a voi.